want me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me. Soundcheck. Il suono della musica di JJ Telesforo. Buon pomeriggio e buona domenica a tutti voi da JJ Telesforo, appuntamento numero 167 del nostro soundcheck, ma anche ultima giornata di lavoro qui su Radio 24 prima della pausa estiva, che naturalmente non mi vedrà in vacanza, ma come vedi la valigia è pronta perché devo raggiungere, mio caro Francesco Tromba, località per i concerti, con tanti festival e tanta musica ancora da fare, quindi c'è sempre del lavoro da fare per chi fa musica. Invece vedo che tu con la tua canottierina, il tuo bermudino e le tue scarpe da ginnastica sei pronto per tornare in Calabria per fare una bella vacanza. Sì, anch'io ho la valigia pronta. Tu hai la valigia sempre pronta per andare in vacanza, mio caro Francesco, mi sembra anche una cosa giusta e voglio farlo subito, ti voglio ringraziare perché mi hai dato una bella mano in questa seconda parte del nostro soundcheck da quando siamo approdati al weekend, quindi ti ringrazio di cuore per tutto quello che hai fatto per me, per quello che hai fatto per la nostra trasmissione di musica. Io invece ringrazio te perché ho imparato molto e mi hai dato anche l'opportunità di condurre addirittura il programma, quindi. Ma tu sai come si dice in Italia, prendi l'arte e mettila da parte, quindi adesso che torni a casa e vai in famiglia, tutta l'arte mettila da quella parte, perché quando sei a casa sei sempre figlio di qualcuno. Eh sì, purtroppo è così. È vero, infatti è così. Allora, che cosa vogliamo fare oggi, visto che è domenica e mi sembra che sia una bella giornata un po' dappertutto, forse in alcune località sta piovendo, però facciamo una puntata da spiaggia, dai. Eh sì, è estate, quindi. Il che non significa che suoneremo musica così, suoniamo sempre grandissima qualità. Certo. No, perché ormai Soundcheck è diventato un marchio di grandissima qualità per quel che riguarda la musica, quindi per musica da spiaggia vorrei dire suoniamo cose dal sapore tropicale o caraibico. Sì, latino, diciamo. Ecco, poi ci sono stati i mondiali, è andata come è andata, non ne parliamo, ne abbiamo parlato tanto, soprattutto qui sulla nostra radio, dove il calcio è imperversato fino all'ultimo, tanto che fra un po' ricominceremo un'altra volta col campionato italiano, ma lo mettiamo da parte, andiamo alla musica, e c'è un disco nuovissimo che noi vogliamo presentarvi, che è quello con protagonista un veterano della musica brasiliana, un signore che si chiama Sergio Mendes, che in questa nuova produzione, dopo aver fatto quell'album capolavoro best seller anni fa coinvolgendo Will.i.am dei Black Eyed Peas, qui addirittura chiama John Legend, con il quale sforna il singolo intitolato Don't Say Goodbye. Eccolo qui, Sergio Mendes con John Legend al soundcheck di Radio 24. Volevi aggiungere qualcosa? Sì, il nuovo disco si chiama Magic. Bravo. For the morning light, till the sun comes up, we'll be lost in us. Don't say goodbye, the night was made for love. Proprio perché quest'anno i campionati del mondo si sono svolti in Brasile, la musica brasiliana è andata per la maggiore, anche i jingle che sono stati realizzati nelle pause televisive fra un tempo e l'altro, le sigle dei programmi avevano tutte il sapore tipicamente brasiliano, samba, bossa nova e così via. E certo, bisogna celebrare anche la musica del Brasile, che è una delle più belle in assoluto. Ecco, questo significa che quando ci saranno, non so fra quanto tempo, visto che poi la nostra nazionale non è che abbia fatto una bellissima figura, quando ci saranno di nuovi campionati del mondo in Italia, noi dovremmo imporre come siglette la nostra cultura musicale. ovvero la tarantella, la taranta e tutto quello. Ma mi sa che fra 20 anni e più, quando ci saranno i mondiali. E faremo la tarantella e la taranta hip hop, che comunque già esiste. Sì, magari già è una cosa interessante. E quindi sono state sfornate produzioni brasiliane di prima grandezza, ma quella che ha cavalcato l'onda nella maniera più intelligente e con grandissima qualità è quella che è stata realizzata da Studio Rio, ovvero due formidabili producer, due fratelli che hanno estrapolato dalle tracce originali di Best Seller, di Marvin Gaye, Bill Withers, ma anche Billie Holiday, le voci di questi meravigliosi interpreti, e realizzando intorno quindi al canto originale nuovi arrangiamenti in chiave brasiliana di Best Seller, come per esempio Lovely Day nel caso di Bill Withers e Sexual Healing nel caso di Marvin Gaye. E li ascoltiamo tutte e due in sequenza qui al soundcheck di Radio 24. When I wake up in the morning, love, and the sunlight hurts my eyes, and something without warning, love, bears heavy on my mind. Then I look at you, and the world's all right with me. Just one look at you, and I know it's gonna be. Soundcheck, il suono della musica. Quing, quing, quing, quing, quing, quing, quing, quing, quing, quing. Anche il veterano Gilberto Gil torna alla sua vecchia passione, ovvero i classici del samba e della bossa nova, con un album intitolato Samba. Bravo, hai indovinato, si intitola Samba, l'ultima pubblicazione per Gilberto Gil, che abbiamo anche ammirato qua e là fra il pubblico, fra i VIP presenti alle partite del Brasile durante gli ultimi campionati del mondo. Lo hai notato? Sì, era scatenatissimo, tifosissimo. Per forza, ma là in Brasile questa è proprio una fissazione, la musica così come il calcio. Gilberto Gil, tra l'altro, per diverse stagioni è stato anche il ministro della cultura del Brasile, e sforna così un album molto bello con alcuni classici rivisitati, ma non tanto, ovvero li suona tranquillamente come li farebbe un grande musicista come lui a casa per gli amici, con tanto di chitarra e pochissime percussioni. Non c'è cosa più bella, perché quando hai a disposizione una bella composizione basta cantarla bene, suonarla bene, e alla fine non hai bisogno di grandi arrangiamenti e di grandissimi impianti sonori come succede a volte. Anzi, a volte quando ci sono i grandi impianti con le grandi orchestre, i grandi arrangiamenti, si nascondono un po' fra gli arrangiamenti le bellissime melodie e si rende anche il tutto un po' volgare, cosa che non succede in questo album di Gilberto Gil. È un'altra artista caraibica, perché viene da Capo Verde, anche se poi ha fatto il giro del mondo, è stata in Brasile, è stata a Cuba, è un artista che noi abbiamo conosciuto e lanciato qui al soundcheck di Radio 24, è la giovanissima compositrice cantante Mayra Andrade. E ti invidio tantissimo perché l'hai conosciuta di persona. Ma come potevo non andare al Blue Note di Milano a seguire l'unico concerto italiano di Mayra Andrade, per poi proporle anche un'intervista che abbiamo presentato qui al Soundcheck. Ma fai ancora in tempo. Sì, perché sarà ancora in Italia per altri due concerti. Allora annunciamo i concerti di Mayra Andrade, vai. Il 29 sarà al Ravello Festival, il 30 sarà a Roma ai concerti nel parco di Villa Panfili, quindi se siete ancora a Roma avete la possibilità di vedere Mayra Andrade dal vivo. E io ci voglio tornare a vedere il concerto di Mayra Andrade, a seguire i brani dal vivo tratti dall'album Lovely Difficult, perché subito dopo il concerto me la voglio proprio abbracciare e baciare, questa bella ragazza di Capo Verde. Ascoltiamo Mayra Andrade con due composizioni tratte da Lovely Difficult, Ilha de Santiago, e poi questo brano che vorrei lo presentassi tu perché è impronunciabile. Amin Kreutek Sheu. E come hai fatto? Ladies and gentlemen, you're listening to Soundcheck. Soundcheck. Il suono della musica. E in questa prima stagione del Soundcheck di Radio 24 abbiamo anche scoperto il talento di Laura Mvula, oggi stella della discografia inglese, nata a Birmingham, insegnante di musica, e che ieri si è esibita in Italia per la prima volta al Festival di Locorotondo, e sicuramente avrà bevuto anche l'ottimo vino che si produce a Locorotondo. Sì, penso sicuramente l'avrà assaggiato. L'avrà assaggiato, e mi hanno anche scritto gli appassionati di musica che seguono la prova del suono, mi hanno scritto proprio per ringraziarti personalmente per tutte le informazioni che avevi dato qualche settimana fa, segnalando il concerto di Laura Mvula lì in Puglia a Locorotondo. Ma c'è un altro meraviglioso artista africano, anche lui un giramondo, da anni vive a New York con la passione non solo per la sua madre Africa ma anche per il sound brasiliano o anche per il tango argentino. Vi sto parlando del bassista, polistrumentista, cantante, compositore Richard Bonat, che arriva in Italia proprio in questi giorni. Sì, il 30 luglio sarà al Fano Jazz Festival insieme al suo quintetto. E da non perdere allora Richard Bonat al Fano Jazz Festival, che è una delle manifestazioni storiche per quel che riguarda il jazz del nostro paese. Sono tanti anni che lì a Fano viene proposta ottima musica, spaziando fra le varie sonorità. Richard Bonat allora al Soundcheck di Radio 24, dall'ultimo album, con Janjo Lamaya. Richard Bonat. Soundcheck, il suono della musica. Thank you. questo appuntamento pomeridiano, nell'ultima giornata di programmazione del nostro Soundcheck, non poteva mancare il tributo al grande Bob Marley da parte della veterana Diane Reeves, con la partecipazione di un'altra vocalist eccellente come Lal Hathaway in questa loro versione di Waiting in Vain, tratto questo brano dall'album di Diane Reeves intitolato Beautiful Life. Bene, stiamo per chiudere la prima parte del soundcheck, quindi vi ricordo che saremo ancora in onda per gli ultimi 45 minuti di soundcheck di questa stagione, nella fase più jazz, a partire dalle 19:15. Allora, sei quasi pronto per le vacanze, mio caro Francesco Tromba, tocca attendere ancora qualche ora. Sì, ma forse mi trattengo qualche altro giorno per andare al concerto di Mayra Andrade, mi sembra una bella cosa, perché così la potrai abbracciare anche tu e capire che cosa ho provato io qualche mese fa al Blue Note. Visto che ti invidio così tanto, perché quando l'hai incontrata mi hai anche mandato una foto al telefono e ero invidiosissimo. Chi ha detto Bob Marley? Chi ha detto Bob Marley? Qualcuno ha detto Bob Marley? Tu. Eh sì, l'ho detto io. Allora, perché ho detto Bob Marley? Perché Bob Marley non solo è uno dei miei artisti preferiti per i testi che ha scritto, anche per la vita. Hai letto la biografia? No, ancora no. E devi leggere pure la biografia di Bob Marley, oltre a quella di James Brown e di Miles Davis. Ok, allora mi aggiornerò. E poi Bob Marley è molto estivo e il sound di Bob Marley è universale, e quindi chiudiamo questa prima parte del soundcheck con Bob Marley. Avevamo detto musica da spiaggia, ma questa non è musica da spiaggia, questa è musica a quattro stagioni, è musica universale, l'avevo già detto. È musica e basta. È musica e basta. Bob Marley chiude la prima parte del soundcheck. I Shot the Sheriff. I Shot the Sheriff. Check one two, mic check one two, mic check one two. Sound check. Microphone check. Il suono della musica. DJ Jet Telesforo. Siamo pronti per chiudere questa stagione del soundcheck con la seconda parte di questa domenica, come sempre una seconda parte col suono tipico del jazz, quello che ci piace tanto, quello che darà questa sera soddisfazione ai veterani del genere, ai grandi appassionati di questa musica immortale. Proprio per questo motivo, mio caro Francesco Tromba, io mi alzo in piedi perché avevo promesso a me stesso che, tornando a fare radio, avrei iniziato la produzione con la voce inimitabile della regina dello swing, Ella Fitzgerald, cosa che ho fatto proprio nella prima puntata del soundcheck insieme al mio amico Renzo Arbor. E come potrai notare, voglio chiudere questo appuntamento proprio con la voce di Ella Fitzgerald. Diciamo che se lo merita, visto tutto quello che ha dato alla musica. Ecco, non solo se lo merita, ma io sono convinto, e lo ripeto ancora una volta, che la Fitzgerald prima o poi verrà beatificata da Papa Francesco, e dovrà farlo presto, perché una donna che ha fatto soltanto del bene nella sua vita, una donna che chi poteva sposare? Ecco, certamente non poteva sposare Gesù, no, non voglio essere blasfemo, sicuramente, però chi poteva sposare una donna come Ella Fitzgerald? Uno del suo calibro, e quasi stato molto furbo e molto calabrese. Infatti lo fece, sposò il contrabbassista Ray Brown, e qui Ray Brown con Oscar Peterson e non so, Herb Ellis Ellis alla chitarra, e poi nei vari dischi ci sono Buddy Rich alla batteria o Louis Belson. Eccoli qui i due dischi immortali della storia del jazz. Ella e Louis Armstrong e Ella Fitzgerald si incontrano e danno vita a una serie di standard di jazz inimitabili. Ecco, questa è la storia del jazz, questa è musica che i giovani musicisti devono conoscere, ascoltare, metabolizzare e imparare a memoria. Sei d'accordo? Sì, io ho anche il vinile. Anch'io ce l'ho il vinile, ma stai scherzando? Eccoli qui, Ella e Louis, Cheek to Cheek al Soundcheck di Radio 24. Happiness I see down when we're out together dancing cheek to cheek, cheek to cheek, cheek to cheek, cheek to cheek. C'è un'altra lezione di musica che i giovani vocalist, soprattutto lì negli Stati Uniti, apprendono dalle tante vicende discografiche realizzate da Ella Fitzgerald. Ella Fitzgerald dal vivo dà vita a una versione di Airmail Special, un brano scritto da Benny Goodman, a una versione speciale. Infatti in questa sua interpretazione assolutamente skat, Ella Fitzgerald si lascia andare a una serie di citazioni di temi che vanno dal jazz alle canzoni più facili, alle canzoni più orecchiabili, e questo brano proprio in questa versione ha fatto la scuola dello skat, dell'improvvisazione vocale. Lì negli Stati Uniti, nelle scuole di musica, nelle scuole di jazz vocale, questo brano di Ella Fitzgerald, questa interpretazione di Ella Fitzgerald, la regina dello swing, viene imparato a memoria. Quindi, mio caro Francesco Tromba, anche se tu da grande so che non vuoi fare il vocalist di jazz, quando tornerai qui al Soundcheck, se ci sarà una seconda edizione, tornerai preparato con questo assolo di Ella Fitzgerald imparato a memoria. Sì, diciamo che è ancora più difficile perché non essendoci un testo sono tutti, cioè è skat, quindi è impossibile. Lasciati andare, Tromba, lasciati andare al piacere dei fonemi e immagina tutti i testi che vuoi. Ella Fitzgerald con Airmail Special al Soundcheck di Radio 24. Soundcheck. Il suono della musica. Can't you see I'm tired and I don't feel like moving no more? But if I ever get my nerves settled down, I'll be a mean so-and-so. E se Ella Fitzgerald era considerata la regina dello swing, sicuramente una delle regine del blues era Dinah Washington, che abbiamo più volte ascoltato in questa prima edizione del nostro Soundcheck, e siamo quasi ai saluti. Ci siamo quasi, mio caro Tromba, sei quasi pronto per partire, per andare in vacanza. Questo era Backwater Blues dal repertorio di Dinah Washington, una registrazione dal vivo. Ci sono ancora dei concerti che vorremmo annunciare, sì, perché la musica è tanta da seguire nel nostro paese ma anche all'estero, quindi ci sono ancora dei festival jazz importanti nel mese di agosto. Sì, forse il più importante in Europa è quello di Marciac, dal 28 di luglio al 15 di agosto. Quindi in Francia. Eh sì, vicino ai Pirenei. per intenderci. Ci saranno grandissime star come Nicholas Payton, Didi Bridgewater, Wynton Marsalis, Herbie Hancock e Wayne Shorter. C'è anche il nostro preferito Jacques Schwartzbart. Sì, c'è anche il tuo amico Gregory Porter. Anche Chick Corea e Stanley Clarke, ma sono tantissimi. Tantissimi, guarda, Jimmy Callum, Ahmad Jamal, che meraviglia, Lucky Peterson, Kenny Garrett, Spyro Gyra, insomma un festival da non perdere. A Marciac, lo ripeto, dal 28 di luglio al 15 agosto, quindi è già iniziato il festival praticamente. Sì. Se siete in vacanza in Francia ci si potrebbe fare un salto, anche se siete in Spagna, è vicino. Benissimo, poi che cosa c'è in Italia invece? In Italia invece c'è il Festival di Berchidda, che viene organizzato da Paolo Freso, e ogni anno viene scelto un tema. Il tema di quest'anno è i piedi. Sono i piedi? Sì. Ci saranno Fabrizio Bosso, Giuliano Oliver Mazzaiello, lo stesso Paolo Freso insieme anche ai suoi musicisti, Omar Sosa, Luca Aquino e Carmine Ioanna. Ci sarà anche il nostro amico Natalio Mangalavite insieme al suo trio Football, con Javier Girotto e Peppe Servillo. Tra l'altro ci sarà anche il Locomotive Jazz Festival dall'1 al 4 agosto a Lecce, nel centro proprio di Lecce, quindi la location è, diciamo, fantastica. Sì, ci sono anch'io in quel festival. Poi ci sarà anche lo storico Barga Jazz dal 17 al 30 agosto. Sì, bellissima location. E poi il Peperoncino Jazz Festival, che va avanti per tutta l'estate, tutto agosto, fino al 7 di settembre. E anch'io sono presente nel cartellone del Peperoncino Jazz Festival. Se non sbaglio, quando è l'8 agosto? Non lo so, non me lo ricordo, guarda, devo andare a vedere, perché intanto cerchiamo di finire la radio in bellezza. Allora, visto che abbiamo già parlato abbastanza e oggi stiamo ascoltando le grandi voci del jazz, per chiudere nel migliore dei modi, abbiamo iniziato con la Fitzgerald, siamo passati da Dinah Washington e andiamo ad ascoltare quello che è considerato forse l'inventore del crooning in senso buono. Insomma, pare che l'inventore del crooning, il papà di tutti i crooner, sia stato Bing Crosby, però personalmente credo che Nat King Cole abbia fatto di più. Nat King Cole arriva al soundcheck con due classici come Route 66 e Making Whoopee. If you ever plan to motor west, travel my way, take the highway, that's the best. I get your kicks on Route 66. Can you hear me? Soundcheck, il suono della musica. In a kind of world, my mind, she's my kind of girl. Yes, my poor heart's in a whirl. She's just my kind. She's a girl, and I'm glad. E parlando di grandissime voci del jazz, non potevamo non ricordare quella di The Voice, Frank Sinatra, con Count Basie in My Kind of Girls. E allora ci siamo. Siamo ai saluti. Termina qui questa prima edizione, questa prima stagione del Soundcheck di Radio 24. Io ringrazio naturalmente Francesco Tromba, ringrazio Radio 24 nella persona del direttore Roberto Napolitano, Alessandra Scaglioni, il vice direttore Barisoni, ringrazio tutto lo staff tecnico tecnico da Silvio Lorenzi e tutti gli altri amici che hanno reso possibile questa produzione. E ringrazio soprattutto tutti voi per aver seguito la nostra rubrica musicale con la passione di sempre, con tantissimo affetto che mi avete dimostrato anche spedendo numerosissime email all'indirizzo di posta elettronica soundcheck@radio24.it. Un altro piccolo ringraziamento è anche agli amici delle case discografiche. Non voglio fare tutti i nomi, ma insomma multinazionali e indipendenti hanno supportato in qualche modo le nostre scelte musicali, dandoci la possibilità anche di incontrare centinaia di artisti e di eccellenti musicisti che hanno raccontato le loro storie ai nostri microfoni. Che altro dire, Francesco Tromba? Vuoi ancora annunciare concerti? Sì, io mi unisco... Ah, non sei stanco ancora? No, mi unisco ai tuoi ringraziamenti e ringrazio anche le mie nonne. Grazie, lo faccio io, ringrazio nonna Tromba e l'altra nonna, come si chiama? Nonna Borgia e nonna Tromba per le prelibatezze che ci hanno fatto assaggiare in queste ultime settimane. Ci hanno supportato anche loro. E come no, ci hanno dato l'energia giusta per arrivare a chiudere in bellezza il nostro soundcheck. Allora, le ultime date, dai. Sì, annunciamo il Roccella Jazz Festival che si svolgerà dall'11 al 23 agosto. Sottolineiamo che è uno dei festival inseriti dalla rivista Downbeat come i festival più famosi e più importanti nel mondo, diciamo. Allora, detto questo, possiamo chiudere e vorrei chiudere con la voce di Ray Charles, The Genius, perché è stato lui proprio il ponte fra la musica jazz, il soul, il gospel. Insomma, quando arrivò Ray Charles si aprì una nuova strada. Ecco, questa composizione ha cambiato proprio il suono e il corso della musica. Il brano è un blues in chiave latina intitolato What I Say e noi vi salutiamo con The Genius Ray Charles, vi ringraziamo per l'attenzione e vi auguriamo di trascorrere delle splendide vacanze. Per chi andrà in vacanza, se no buon lavoro a tutti, buona settimana e soprattutto buona musica da Gegé Telesforo e da Francesco Dorò. Grazie Francesco, grazie a tutti voi. Termina qui il soundcheck. Vai Ray Charles, What I Say.